Parliamo di carcere e di condizioni inumane, perché qualche giorno fa Susanna Marietti di Antigone ha riportato la situazione che si viveva in una sezione del carcere di Torino, la cosiddetta sezione sestante, una sezione psichiatrica, e noi siamo proprio al telefono con Susanna Marietti, che saluto, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, tu avevi visitato questa sezione e avevi trovato condizioni a dir poco disumane. Sì, veramente al di là di ogni immaginazione, anche per noi che siamo un'associazione che sono 25 anni che visitiamo tutte le carceri d'Italia per adulti e per minori, quindi non è che non siamo abituati anche a condizioni di degrado che purtroppo accompagnano la detenzione in Italia, ma il reparto sestante veramente va oltre. Questi esseri umani rinchiusi là dentro sono privati di qualsiasi, oltre che di qualsiasi bene materiale, perché vivono in celle dalle condizioni igieniche pessime e praticamente vuote, ma anche di qualsiasi progettualità, che forse è peggio, cioè non c'è nessuna presa in carico per loro. Certo, tu raccontavi appunto di persone tenute al buio anche per giorni, costrette a fare i bisogni in una turca che non, come dire, intasata, situazioni di questo tipo che vanno oltre l'umana decenza. Sì, vorrei pesare le parole, perché io in quel mio articolo di resoconto ho raccontato proprio solamente quello che avevo visto con i miei occhi senza andare oltre. Sì, la turca in ogni cella, alla vista di chiunque passi per il corridoio, questo è così. C'era un uomo che si lamentava che la luce della sua stanza non si accendeva e il poliziotto diceva: ma no, ma sì, ma dai, usa l'interruttore, vedrai che si accende. Effettivamente non era vero, la luce era rotta, non c'era proprio la lampadina, non so bene. E io ho scritto: non so da quanti giorni questo signore stesse al buio durante tutti i pomeriggi, le sere, eccetera. Un altro signore mi ha detto: per favore mi mandi qualcuno ad aggiustare la turca, perché sono 4 giorni che ho le feci in camera. Anche questo me l'ha detto lui, però il poliziotto che era con me non si è sorpreso, ha detto: sì sì, manderemo qualche detenuto della MOF che pulirà. Insomma, queste le cose, però quello che ho potuto vedere con i miei occhi è veramente una condizione di degrado inimmaginabile. Cioè, le persone sono imbottite di farmaci, cioè alcuni di loro, non dico che ho parlato con tutti, ma alcuni di loro non si reggevano in piedi, avevano gli occhi a mezz'asta, avevano la bava che colava dalla bocca. Ecco, io non credo che la psichiatria, che è una scienza importante e nobile, meriti queste cose. A seguito anche appunto delle vostre denunce, ora è arrivato l'annuncio che questa sezione verrà chiusa e tra virgolette ristrutturata, insomma, quindi questa è una buona notizia. Questa è una buona notizia. Devo dire che i lavori di ristrutturazione sono nell'aria da tantissimo tempo. Credo che questa volta si farà, ma non credo che con questo il problema sia risolto. Io invito veramente la cittadinanza, tutti noi, la società, a non abbassare l'attenzione, perché chiudere il reparto, ristrutturarlo, spostare quelle persone in un altro reparto dove magari non c'è la turca a vista, che certo è un passo avanti, però continuare a lasciarle gettate lì sulla branda imbottite di farmaci non è una soluzione. Ora, Torino non è la sola sezione psichiatrica in giro per le carceri italiane, ce ne sono tante. Credo che sia una realtà sulla quale dobbiamo tutti tenere gli occhi molto aperti. Infatti volevo proprio farti una domanda su questo: è possibile che ci siano condizioni simili in altre carceri italiane, e cosa si può fare per denunciare ed evitare che queste situazioni si ripresentino? Credo che ci siano situazioni meno plateali, ma immagino che ci siano posti dove la presa in carico di tipo psichiatrica si riduce appunto all'imbottimento da farmaco. Allora, cosa si può fare? Bisogna cambiare una cultura di fondo, ma cambiare la cultura di fondo, che è una bella frase, non si può fare senza un segnale politico. Un segnale politico che ci sia un controllo da parte delle ASL competenti rispetto ai medici che vengono mandati in carcere, un controllo del dirigente sanitario costante sulle cure che vengono fatte in carcere, così come un controllo dell'amministrazione penitenziaria. Questo è un segnale per cui poi gli operatori di prossimità dovranno farne conti. Certo. Io ti ringrazio. Grazie a voi.